Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, chiudiamo lo speciale Oltre il riciclo con un'ultima puntata dedicata alle tecnologie di separazione. Come abbiamo visto infatti nelle puntate precedenti, il segreto per innescare processi di riciclo che non portino ciclo dopo ciclo a un degradamento delle caratteristiche del materiale sta in una selezione, in una separazione molto accurata appunto dei materiali. Per esempio oggi dal 30 al 40% della raccolta della plastica va a costituire quello che viene chiamato plast mix, cioè un miscuglio di vari tipi di polimeri che va a formare una plastica di bassissima qualità quando viene riciclato e molto più spesso viene direttamente bruciato, mentre per attivare una vera e propria economia circolare sarebbe necessario che i vari tipi di polimeri vengano divisi e trattati separatamente. Ed eccoci dunque al tema delle tecnologie di separazione di cui parliamo questa sera con l'aiuto di Loris Pietrelli, Dipartimento di Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell'Enea. Buonasera Pietrelli, bentornato. Buonasera Maurizio. Allora, quali sono oggi come oggi intanto le tecniche, parliamo dello stato dell'arte, che vengono utilizzate negli impianti di separazione? Ma sono tecniche che si basano su alcuni principi fisici soprattutto, ad esempio penso alla separazione della frazione ferrosa che viene separata mediante sistemi magnetici, penso alle frazioni non ferrose, quindi la separazione di alluminio, rame, ottone, eccetera, che viene effettuata mediante le correnti indotte, cioè quando si genera un forte campo magnetico questi materiali non ferrosi praticamente saltano fuori dal nastro trasportatore e quindi possono essere poi separate. Penso alle plastiche che perlomeno le più comuni, il polipropilene, il polietilene, il PET, che fra l'altro sono quelle più pregiate, certo, perché una tonnellata di queste può anche essere pagata intorno ai 300-400 euro, vengono invece separate utilizzando la spettroscopia infrarossa, cioè in realtà sono dei lettori che consentono di attraverso la cosiddetta fingerprint, cioè attraverso lo spettro, perché ogni spettro è caratteristico ogni materiale ne ha uno ben preciso, certo? Esatto, può essere individuato quindi l'oggetto con quella determinata matrice vetrosa e poi con un sistema idraulico, aria compressa viene ecco, io separato. Ho visto delle immagini dove c'è una specie di cascata di questi frammenti di plastica che vengono letti tramite questo lettore ottico che fa una spettrometria così in pochi decimi di secondo, e poi ci sono come tanti soffiatori che sparano i pezzettini di plastica nel contenitore giusto. Esatto, una cosa del genere, molto affascinante. Sì, è affascinante, è una sorta di caccia, esatto, all'oggetto. Esatto. E poi sto pensando per esempio ai lettori ottici che separano per colore, per esempio il PET, il polietilente reftalato, tanto per intenderci le bottiglie dell'acqua minerale, sì, materiale molto pregiato, aumenta il proprio valore se riusciamo ad ottenere una componente monocromatica, quindi certo, il PET monocolore sicuramente vale molto di più del PET. Sempre per la stessa ragione, che può essere riciclato molto meglio. Posso aggiungere che visto che il valore della frazione da riciclare aumenta enormemente in base alla purezza, negli ultimi anni nel settore del riciclaggio, nel settore del trattamento dei rifiuti, la sezione che si è maggiormente sviluppata è proprio quella del sorting. E infatti un po' questo è il tema di cui stiamo parlando oggi. Ecco, che strade si stanno seguendo per migliorare quindi ancora di più la capacità che abbiamo di separare i rifiuti accuratamente? Tornando alle plastiche, per esempio, oltre che lavorare con la densità, ogni plastica, ogni polimero ha una sua densità, si sta pensando all'uso di solventi selettivi. D'accordo. La volta scorsa vi ho raccontato, sì, del riciclaggio del polistirolo espanso, adesso ci sono alcuni esempi anche virtuosi, fra l'altro italiani, per esempio per il riciclaggio del PVC, del polivinil cloruro, che è difficile da riciclare, non si può bruciare perché c'ha il cloro, cloro dentro, quindi produce, produrrebbe diossine. E quindi c'è un'azienda, per esempio, che ha sviluppato un processo per la separazione selettiva del PVC utilizzando un solvente che scioglie solo questo. Ecco, quindi un solvente selettivo per cui si scioglie solo un determinato polimero, quel polimero lo si ottiene praticamente puro a quel punto. Quel polimero si ottiene puro, esatto. Però i solventi possono essere anche interessanti. Per esempio, personalmente sto facendo una sperimentazione per ottenere una sorta di polistirolo fatto di Plasmix, ecco, utilizzando proprio un solvente e una componente polimerica facilmente... Quindi un caso proprio di upgrading, potremmo quasi dire, in questo caso. Sì, perché ecco, il Plasmix bisogna pagare per conferire questo materiale, quindi già avere solo, anche in minima parte, un riciclaggio di Plasmix significa avere un salto in termini ambientali è notevole, insomma. Grazie Pietrelli. Grazie a te, Maurizio, e buonasera. Questo è davvero tutto, anche Smart City se ne va in vacanza, ci diamo appuntamento a settembre. Per chi però non potesse proprio fare a meno di noi, ci sono le repliche alla solita ora, il meglio della programmazione di Smart City degli ultimi 6 mesi. Buone vacanze anche a voi e buona continuazione qui su Radio 24.